Devo dire che è, come si può dire, una musica diversa da, appunto, la classica che uno può ascoltare in radio, nei CD o che anche gli amici propongono. Devo dire che è una musica che secondo me fa riflettere, come si dice, una musica che più che andare quelli che ascoltano la musica, diciamo, quella normale, chiamiamola tra virgolette, che battono il ritmo, cercano il ritmo. Invece questa musica è totalmente diversa perché, insomma, il ritmo va un po' come vuole lui, non puoi prevedere come sarà, non può andare. Niente, questa puntata volevo appunto cercare di capire persone e persone che magari non si occupano attivamente di questa roba qui, che impressioni hanno da un po' dall'esterno. Ma è molto interessante. Perché per noi magari è la musica più bella del mondo, però. No, più che altro, più che la musica più bella del mondo, sappiamo cosa c'è dietro e quindi ci appassiona quello che c'è dietro. Beh, ero un po' scettica a dirti la verità, però perché io non. Boh, se la musica non è armoniosa e non mi piace, non l'ascolto di solito. E quindi? Però quel giorno, non lo so, è stato bello È stata vederli. armoniosa È stato armonioso, sì, è un'armonia stato. diversa dalle solite. Sì, non è stata l'armonia da spartito, però è stato bello. Sentirvi, cioè, chiudevi gli occhi e entravi in un altro mondo. E quando la senti ti viene voglia di suonare anche te o no? Sì, perché sento che posso farlo anche Questo ci interessa, veramente. Sentendo questo capolavoro qui, cosa. Questo che ascoltiamo sembra di stare in città. Si è aggiunto anche il tuo telefonino. Sì, il mio telefonino è bello. Ha voluto suonare anche lui. Sembra di essere tipo, a me dà l'impressione così, no? Ascoltandola, sentendola senza ascoltare, diciamo, no? Sembra che sta tipo una città straniera, musica d'ambiente, le città, come se sto per strada a Istanbul, mi È viene vero che sembrano anche in mente. Così. quei film dove c'è Sto a attraversare le strisce pedonali su un incrocio di Istanbul, questo mi viene così senza. Poi lì è come l'improvvisazione è improvvisata, anche chi fa il pubblico entra anche lui in una fase di improvvisazione, cioè cosa faccio? Ascolto, mi piace, non mi piace. Non è come dire vado a sentire Mozart o Bach o queste persone che sai già com'è più o meno la E un musica. po' deve piacere per forza. Cioè, mi piace Mozart, vado ad ascoltare Mozart. Improvvisazione, tu dici, boh, bella, brutta. Improvviso, vado ad ascoltarli. Quindi tu dici anche un pubblico che diciamo preparato, minimo preparato al termine improvvisazione, se va in un luogo di improvvisazione, ci va con uno stato d'animo appunto di questo genere, dove anche lui sarà chiamato Sì, ad improvvisare la sua la posizione di sua posizione pubblico. beh, può piacerti, come può non piacerti. E lì non è che puoi tanto dire mi piacerà, non mi piacerà. Perché l'improvvisazione è così improvvisata. Magari anche sei nel momento in cui dici, boh, pensavo fosse tutt'altra cosa, me ne vado. Oppure sei lì che non hai nessuna intenzione di ascoltare, passi. Però, niente male. Ascoltare meglio, cioè, quindi anche il pubblico in sé, appunto. Oh, è da ascoltare una volta ogni tanto. Ah, ecco, questo è Cioè, interessante. non mi rilasserei con la musica La con. estemporanea il pomeriggio, ecco. Quindi è una cosa serale, secondo te? No, è una cosa da fare in determinati momenti della settimana. A questo punto, qual è invece la musica che non è adatta solo a certi determinati momenti? La musica che ti piace, la musica del cuore. Uno potrebbe avere anche la estemporanea nel cuore, cioè essere... infatti sì, però per me questa è la musica, certo, da ascoltare in determinati momenti. Certo. Io Cristina. Niente, con l'approccio che ho avuto mentre venivo qua, dico, ma cioè, ne aveva parlato Marco, se era entusiasta lui, no? Dico, beh, proviamo, anche se non ero molto convinto, non credevo in quello che stavo per fare. Ok. Poi ci siamo messi di là, abbiamo iniziato a suonare, inizia un po' disagio, ecco, un po' disagio, perché proprio non riesci proprio a entrare, capito? Non riesci a entrare nella musica. Poi il fatto che comunque suoni un'ora e suoni un'ora di fila, cioè suoni un'ora senza mai fermarti praticamente, poi magari tagli le tracce, non so, però non è che ti fermi mai quell'ora. Alla fine in un modo o nell'altro, cioè, ti diverte, cioè entri un po' nel giro, ti passa, è anche volata, diciamo, per me quell'ora. Mentre suonavo mi sono divertito perché era interessante comunque, quindi alla fine mi sono divertito molto suonando. Poi quando ho riascoltato i brani successivamente, pensavo qualcosa in più, nel senso riascoltandoli sono rimasto deluso di nuovo, cioè sono tornato allo stato precedente, nel senso da che mentre suonavo, che ero venuto poco convinto, mi sono divertito e mi è piaciuto, alla fine riascoltando dico, è mezza merda. A dirla tutta, quando ho ascoltato un concerto dal vivo, pur durando come un normalissimo concerto, forse era anche troppo il quanto è durato. Sì. Perché sei attento dall'inizio alla fine. Mm-hmm. Non puoi mollare, lì dici. Mm-hmm. Adesso so più o meno com'è, tipo nei ritornelli, dici, so già più o meno com'è, mi rilasso. Sì. Invece lì è tutta da attenzione come musica. Vorrebbe dire per noi che la facciamo, di fare attenzione a, appunto, a fermarci a un certo punto, no? Un po' di proporzione, Le proporzioni, esatto. Oppure cambiare totalmente, che ne so, strumenti. Radioascoltatori, quindi ho l'impressione che tu abbia coperto con un grande strato di giudizio molto severo. E quindi era divertente anche. Sapresti dirmi se ti piace di più la musica estemporanea quando... Questa domanda è cresce o quando cala? Ci sono delle situazioni che senti quando c'è l'energia proprio di tutti, che ci sono tutti là, che si sente che stanno esplodendo quindi quando si rarrefà, quando ci sono questi suoni, non siamo queste parole troppo e dai, oh. Quando si atomizza, come si dice? Quando si atomizza, peggio. Cioè, peggio ancora. Dalla padella alla brace. No, che quando cala si diventa più... Quando cala è più separato il suono, cioè si sentono di più gli strumenti, mentre quando è tutto insieme è un gran casino. Loro colore, perché secondo me anche questa musica ha un colore. Se suonano tutti insieme, alla fine il colore è sempre quello. Cioè, questo tappeto musicale dà sempre uno stesso colore. Cambiando gli strumenti oppure facendo qualche gioco diverso, cambi colore. Sai che sembra questa? Sai che mi dà un cambio in mente? La musica tipo dei Tom e Jerry, dei cartoni animati. Quella Tom e Jerry che quando scappano se rincorrono, sì, poi lo prende, che sale, scende. Ah, giusto, vedi di nuovo immagini, vedi? Io ho detto. Che secondo me non è. Noi non componiamo, insomma. Quindi non è che eseguiamo una cosa che non è già stata scritta. Semplicemente. Eseguiamo qualcosa che non è mai successo. E che succede lì? Succede lì, esatto. Adesso noi abbiamo Germana, no? Qui con noi Germana, che è una persona che assieme a te da ragazzi, no? Ha fatto delle esperienze e poi un po' per scelta, un po' per la vita, insomma, no? Non è andata nella tua nella stessa tua direzione, no? Esatto. Ti poni, ad esempio, più come pubblico. Che sì, ecco. Direi di sì. Aspetta che... Allora, Cristina... Qual è la tua opinione sulla musica estemporanea? Estemporanea? Conta che l'ho conosciuta domenica, sabato, due sabati fa, la musica estemporanea. Sì, magari musica... se sei un po' giù e vuoi restare un po' giù, perché a volte serve, allora ti metti delle musiche un po' tranquille, un po' che seguono un po' il tuo umore. Magari vuoi che ti tiri su, allora metti una musica più... Chi ci abbiamo, Marcello? Chi ci abbiamo? Aspetta. Ah, veniva allora Daniele. Sì? Ciao. Ciao. Boh, arrivi e non c'è più niente. L'istituzione è quella roba lì che quando tu gli proponi un progetto, un prodotto, l'istituzione dovrebbe quel prodotto lì che conosce, che sa, che ha capito che cos'è, farlo fruire, quindi che ne so, se in quel caso 2 ore di tempo durava questa cosa, se in quel caso l'istituzione pensava a un intervallo, per o forse esempio, a 2 intervalli addirittura, a delle cibarie, delle cose da bere per il pubblico, allora già, già diventava più interessante. Esatto, poi già un po' ti rilassi.